camicetta fiore blu. Vo fa signori nel manzo scuola pure tu. Te pieni e sigaretta quando accatta per papà. Te miette già russette come vita va mamma Lazzare. Ma Lazzare la romma sì, tu a me mi piace sempre più. E fin da questo pedo di vicino scuola do Gesù. Tu invece mi risponde già, io te verrendo proprio a te. Per me l'amore può aspettare, che maggi fa non fa per me. Lazzare la vendata primavera, quando passa tutte mattine, già te spicche in te vetrine, solo un complimento te va van van. Ma Lazzare la roba sì, tu non mi pensa proprio a me, e ride come fa capire che perdo tempo presto a te. Nanza scuola do Gesù, te va sempre più stretta camicella fiore blu. Te pili e guardi schiaffe tutte fuori da papà. Te trovo un biglietto che te scrive chi lo la Lazzare. Ma Lazzare la come sì, che si caduta pure tu. L'amore non ti fa mangiare, ti fa soffrire, ti fa pensare. La sera tu le dici no, la sera tu le dici ma se non vado a te da, fai segno sì senza parlare. Lazzarella, o tempo come vola, ma te trovi tutte mattine le lacrime scuscine, manca una compagnia che può aiutare. Ma Lazzarella come sì, te si cagnata pure tu, e te prepara di stussi, ma di la chiesa do Gesù. Mattine, fine lacrime su cucine, manca una compagnia da poi aiutare. Ma Lazzarella come sì, te si cagnata pure tu, e te prepara di stussi, ma di la chiesa do Gesù. Lazzarella, mo si gira.